11:10 sulle libere frequenze di Radio Blackout. Tra poco comincia una nuova puntata di Parole Ribelli. Di Parole Ribelli sta per iniziare. Ricordiamo un po' la scaletta di oggi. Iniziamo con una diretta alla biblioteca autogestita del terzo piano per farci ricordare la campagna sul caro libri, e che è in atto in questi giorni a Palazzo Nuovo e nell'Università di Torino. Poi andremo a leggere un po', a commentare un'intervista a uno studente della Goldsmith University, dove recentemente sono state fatte delle mobilitazioni insieme ai lavoratori e alle lavoratrici della struttura. E poi, in chiusura di puntata, andremo a presentare il convegno del 14 a Roma, Legalità versus Legittimità, e poi la data di mobilitazione che seguirà immediatamente dopo. Adesso ancora un po' di musica e andiamo avanti con la puntata. Intanto ricordiamo i contatti: 011 24 95 669 346 66 73 263 per chiamarci. Sentimi, già sai, ma non puoi prendermi adesso, che farai? Sentimi, già sai, credi di conoscermi, adesso che farai? Un ciclo contro tutti a posto, mo, fratello sto bello, io gastro, che ci fixi snap, vieni via col freschi, spassami sto di pressimi, spingimi in play, nuove techniques, per i mega minis con i chicks beat, bella libra ci, mettimi a giro tipo frisbee, meglio skunk split, steak ai tempi del Libano, peace bro, dedico al pushing, gusci di creme via, 7G, paradia, sangue mix e via, triple strip, strippo po' strippo giù, splimpo splin, splattering, flip un mostro, flip un mostro, suar disco, su nastro, impasto ciò, THS, coestro, aspro, minimo, fino alla fine di fino, dentro casino, fuori pellino, enuncia, pronuncia, funcia, faccio blues, papa buncia, ci cucuccia, memo, bugabì, rinuncia, sentimi. Installanda, quando la bamba blanda, flamba sta blanda, plana musica calma, calma, salva plasma, ma salma, se l'aria ridà si rifrange in un prisma, e scisma, congiura in postura, tale quale Giuda, che odi nella carne cruda, sale sulla piaga nuda, evidentemente l'ingiuria mo trasuda, ma snada, vada come vada, maschera nada, uno continua la sfida, messo si divida, 11.000 per 365 smivida, sfida più sfida più spinto, cinte cita la ciria, ma incidi la, è easy ma debu debu, placebo e placebo, placebo, spasmi di plastica in capsula, cerebro a cerbero, baci a braci, non si piange, un cico non si tange, sentimi. Senti, suono mo, sono mo, stono mo, vedi di vedermi amico, cicco, tiro, tipo, vado a segino, senno, dribblo, sfilo, sguillo, tiflo, strappo, jappo, jappo, sangue mo, demo, demo, becca mi sto promo, psico, cromo, poco loco, lobo, strobo, cicco, percepisco, po, tienimi sopra, l'onda, sfonda, sonda. Sentimi. Io sono l'incognita, chiusa dentro l'anima. riviera, terra di frontiera, il mio vecchio mare. Ma non posso fermare il flusso, no, della vita. No. Yeah, il vecchio quartiere. Cammino lentamente. Ma chi mi fa il mio vecchio quartiere? Cammino lentamente per il mio vecchio quartiere, sì. Incontro gente, sì, che giuro non vorrei vedere, no. Barista che mi fissa dritto in faccia e che mi xa, sì. Sono sempre io, quello che un tempo credeva in Dio, quello che credeva al mondo fosse il miglior posto dove stare. Passando in questi posti sento il mare penetrare i miei polmoni, dilatare i pori. Torno a stare fuori, a buttarmi in situazioni, a rischiare per il gusto ormai non più per convinzione, ma istinto, reazione, public relazione, coi ragazzi dai Caruggi. Polizia, un generale, fuggi. Nel mio Walkman passa un pezzo di luce e poi dei Fugees. Ma più stai qua e meno tempo ti distruggi. Le 10 suona le campane, dai buchi delle case escono le pantegane. Oggi ho zero voglia di star chiusi nelle tane. Anche i gatti hanno paura di sbranargli le membrane. Gente del palazzo insieme a me nella casa, con Jimu, Dennis, Loris, la testa brasa. Saluto Piani, Fondura, Collette, Ferriere, BDM, Fabri Vero e tutte le persone vere. Non smettete mai di essere così sincere, e chi vuol fare il duro, il gangsta, fa il piacere. Cammino per il mio vecchio quartiere, per i vicoli e cuniculi del mio vecchio quartiere. Schivo pantera, schivo pantera. Cammino per il mio vecchio quartiere, per i vicoli e cuniculi del mio vecchio quartiere. Vecchio quartiere. Cammino lentamente, non c'ho voglia di fermarmi. Di notte la città sembra sepolta, ci sono tre gendarmi a guardarmi. Gli altri tutti andano a imboscarsi, sparsi chissà dove a spaccarsi. Per distrarsi non c'è niente, e le piccole province diventano violente. E bambanozzi con cui un giorno io giocavo a pallone, adesso sono cresciuti e fanno le rap alle persone. Tranquillo, questa è la normale evoluzione. Psicologi teorizzano il fenomeno, ma non capiscono è normale, anche se a molti sembra anomalo star male. E poi sempre più sporco questo mare, e poi niente da fare se non cazzeggiare all'infinito. Ma adesso sciacco il dito sul pomello, schiaccio il bottone, esco dal muro in propulsione, accedo al ritornello. Ai miei compa d'infanzia, fratello, cammino per il mio vecchio quartiere, per i vicoli e cuniculi del mio vecchio quartiere. Cammino per il mio vecchio quartiere, per i vicoli e cuniculi del mio vecchio quartiere. Vecchio quartiere. A volte la città mi butta giù, sai. Non riesco più a vedere il cielo oltre le fabbriche, alle case e ai guai. A volte la città mi spacca in due, man. Mi deprime, ma delle due la spacco io, man. Biochimicamente sento il richiamo del mio mare, devo andare. Sento gente che dice lì che cazzo sei andato a fare. Altri mi dicono hai fatto troppo bene. I fratelli sulla costa godono il sole, ma soffrono le catene dell'inverno quando cala sulla strada. Alle 10 copri fuoco solo sbirri, notte amara, lungo l'Aurelia con la para. Posto di blocco, tranquillo che il poliziotto non spara. Poco, il primo in aria, il secondo per cambiare aria, che sembra sana ma in realtà ha la malaria. La marea si porta via il dolore, quando arriva primavera torna il suo calore. Senti il suo sapore, fame chi nasce, fammi ritornare al mare. A chi non gaffa gucciu, a voi youtube. Fame chi nasce, a chi non gaffa gucciu, a voi youtube. Cammino per il mio vecchio quartiere, per i vicoli e cuniculi del mio vecchio quartiere. Abbiamo ascoltato Neffa, XYZ, The Marvelettes, Destination Anywhere e Inoki. E adesso procediamo con la prima diretta. Allora, procediamo adesso con la prima diretta allo studente del terzo piano. Ricordiamo un po' l'iniziativa della biblioteca autogestita del terzo piano, qual è stata in questi giorni. E l'iniziativa prevedeva, verte sul caro libri, e tutto questo oltre che sul costo dei libri, sull'accessibilità dell'università, che oltre a tasse molto elevate, ci sono costi di libri, ci sono professori che proprio richiedono libri nuovi, firmano addirittura la prima pagina e di conseguenza costi molto elevati per gli studenti. Paolo, ci senti? Paolo? Abbiamo, mi sa, dei problemi. Ok, allora mandiamo un altro pezzo mentre cerchiamo di andare in diretta con Paolo. Segui la furia a cavallo dell'est, movimenti gesti bruschi, atteggiamenti pigri. Show, show, show, molivete da S, preparati a tutto, come nella tana delle tigri. Questa è la costa degli intrighi, dove si allenano i paladini dell'ingiustizia, pronti a combattere per ogni piccola cosa, causa. Addestrati a tutto, tra l'incroci e le piazzette, per risollevarsi dalla paranoia urbana. Dentro il parco, con fare sospetto, si aggirano quasi come degli umanoidi, tubi in coccia tipo mutoidi, le caprette ti fanno ciao Heidi. La nonnetta con la carrozzetta, uno della borghese che si fuma una sigaretta, guarda per terra la siringa infetta. Quelli del parchetto stanno facendo un piano, un progetto. Tremate, scappate, quando il popolo del parco vi ritornerà all'attacco. Suoni del mio giro di sequenze metaboliche, amplificando sinfonie di arti diaboliche. Cavalcata onda sulle tracce dei cavalieri della musica rotonda. Cool, rotonda, cool, rotonda. Suoni del mio giro di sequenze metaboliche, amplificando sinfonie di arti diaboliche. Cavalcata onda sulle tracce dei cavalieri della musica rotonda. Cool, rotonda, cool, rotonda. Quando il canto dei grilli farà scoppiare la città, non ci sarà più via di scampo, non arderà lo Spirito Santo, fuggire sarà impossibile, non funzionerà il mantra. Paolo, unica via in fuga saltando nuove cellule cosmiche. Paolo? Paolo, ci senti? Continuiamo a tentare di metterci in contatto con Paolo. Paolo? Naturalmente vogliono manie che si sviluppino collettivamente. Suoni del mio giro di sequenze metaboliche, amplificando sinfonie di arti diaboliche. Cavalcata onda sulle tracce dei cavalieri della musica rotonda. Cool, rotonda, cool, rotonda. Suoni del mio giro di sequenze metaboliche, amplificando sinfonie di arti diaboliche. Cavalcata onda sulle tracce dei cavalieri della musica rotonda. Cool, rotonda, cool, rotonda. Gocce di soluzioni megametriche per situazioni ormai isteriche. Meravigliosa, eccezionale veramente. Questo è il traghetto sul tempo costante. Guida Caronte, buttati mo' di goccia nel giro, sa fronte. Dosaggio logico per rendermi attivo, antisettico come pensa il sogno, stregonesco come lo stramonio. Mi appare l'immagine di Sant'Antonio, legittimo come la matta, sto vitaminizzando il mondo. Scala reale, 7,5 legittimo. Il giudice del grande gioco fa partire la rivincita dei dannati della terra. Guardatemi, sto arrivando senza senso, come l'uomo cannabinoico, come Cabal enolico. Guardali, aspettali, aspettate che arriverà il sogno nel bel mezzo della vostra estate. Suoni del mio giro di sequenze metaboliche, amplificando sinfonie di arti diaboliche. Cavalcata onda sulle tracce dei cavalieri della musica rotonda. Cool, rotonda, cool, rotonda. Suoni del mio giro di sequenze metaboliche, amplificando sinfonie di arti diaboliche. Cavalcata onda sulle tracce dei cavalieri della musica rotonda. Cool, rotonda, cool, rotonda. Yaman, centro click stilo. Sabba ai DJ e agli MCs, abuso duro, fanno in culo al mainstream e magazine, notizie flash, i rap muoio cash, a non su dove stesso, non supporre che col sudore che ho versato in passato anch'io, sabbi guadagnato da Dio, avere mani, mani per le mani, magari domani, oggi seguo vani ideali, ma i reali problemi sono pieni di debiti e crediti, per cui mettiti in gioco, con due lire o astieniti, se non sei pronto di investire, imponi il tuo stile, parti dalle tue parti, dove scappi ad imbazzarti, parti dallo zero se vuoi arrivare a getto, l'obiettivo primo, CV, dedicato a chi sfrutta il suo talento, dedicato a chi non butta via il suo tempo, dedicato a chi sa e lo dimostra, la città è nostra, dedicato a chi vive ogni secondo, dedicato a chi sa come stare al mondo, dedicato a chi sa e lo dimostra, la città è nostra, temerari tra i binari negli scali. Oh. come liriche al microfono non possono fermare tutti. Per quanto ti metti di impegno lo spegno un incendio con due sputi. Lo sceriffo vuole nome e l'indirizzo di ogni tizio che bomba. I am not talking about no motherfucking gang. God damn. Body slam. Programmer jam. Push the button. Recording everything. All right. Well, hit that motherfucker eat. I would dodge on your blood, you won't budge. I would dodge on your blood, you won't budge. I would dodge on your blood, you won't budge. Attack with a lot of laughter while I'm studying capping your dome with 9 millimeters of chrome. Flesh and bone marrow are thrown into your facial identification is gone. Long gone. I think I'm freaking you, continue. PX my jewels and the avenue, continue. Rescue the revenue, underground, 1600 pounds of style marching. Look over the hill, brother man, you see I'm stalking. And if you get a zoom in, you can see I'm walking. In a pack of four, and what's the store? It's not for you, so boo, get it back to the back, take it back. Freestyle, heavyweight. And you don't stop. Grab a can, listen up. I'm about to fill your fucking cup to the rim. Go, or you'll get struck with a blunt object. Or feels like you got hit by a Mack truck. Huh? Don't you wish that you can fuck the freak so much a freak don't fuck, huh? I let the pump pop if you wanna pop, chump. You pop so you end up in my trunk. Wiki, wiki, wiki, whack MC. There'll be no tricky, tricky, trickin' me. Shut up, sit back and enjoy the beat down, sucker. Slap you with my buckle. Your dead homie was a jocker. Knocky mother, boxer. Popping your motherfucking cone like Red and Walker. Came to L.A. button like you was a New Yorker. Should have gave it all you got while you was doing the do. Because now the fellowship is straight mopping your crew. Now who to get in the underdividing kitchen on the grill? Look over the hill, seems like my brother got a lynch. And who would have thought that he'd be the one jumping from a limb? It's because I didn't. Shot scream, echo home again, tight. Dato che siamo duri a morire, proviamo a fare l'ultimo tentativo di collegamento con Paolo. Qui tutta la redazione è impegnata perché vada a buon fine. Ok, allora mi sentite? Ok, allora ciao a tutti e grazie a Radio Blackout per l'opportunità di raccontarmi un po' della nostra iniziativa sul Caro Libri. Allora, sappiamo tutti come ormai la nostra vita universitaria di noi studenti sia diventata costosissima tra tasse da pagare e libri universitari da acquistare. La vicenda triste è che talvolta capita anche che il professore in sede d'esame pretenda il libro originale, senza il quale non è possibile sostenere l'esame. Quindi diciamo che bene o male tutti noi studenti abbiamo cercato delle alternative per ovviare a questo problema chi decidendo di andare in biblioteca, chi decidendo di comprare il libro usato, oppure chi fotocopiandolo. Sappiamo però che fotocopiare più del 15% di un libro è reato. Ora la domanda che noi studenti ci siamo posti è questa: se è più legittimo che professori o case editrici guadagnino sui già pochi soldi di cui noi studenti disponiamo, o che comunque gli studenti fotocopino invece i libri per poter terminare i loro studi. Sì, Paolo, a questo proposito ricordiamo anche l'anno scorso, sì, che ci fu, diciamo, il giro di repressione nei confronti, sì, delle copisterie intorno a, esatto, Palazzo, sì, Nuovo, e voi avete fatto anche delle iniziative in aula, sì, rispetto... Sì, esatto. Noi ci siamo la scorsa settimana e anche quella prima... ci siamo ritrovati per portare questa tematica e sensibilizzare in qualche modo anche gli studenti. Abbiamo trovato grande consenso comunque nelle aule, attaccando degli striscioni contro il caro libri e volantinando. Appunto, con queste iniziative qua volevamo rivendicare il diritto ad una cultura libera e quanto più accessibile a tutti. Ma volevamo, sì, sapere se ci racconti un po' reazioni di professori e studenti, diciamo, il vostro messaggio Ma, è stato allora, recepito, sì, oppure c'è stato qualcuno che si è posto in aperta contrapposizione, oppure veramente l'immediatezza di quello che cercate di dire è stata anche magari appoggiata da qualcuno, se ci racconti un po' come è stata, certo, presa. Allora, beh, diciamo che sicuramente siamo tutti sensibili a queste tematiche. Gli studenti durante le nostre iniziative si sono mostrati interessati e ci hanno appoggiato, dicendoci anche comunque o facendo i nomi di quei professori che pretendono il libro originale in sede d'esame, e quindi insomma ci siamo confrontati anche personalmente. Poi l'altra iniziativa che abbiamo fatto è appunto la fotocopiatrice nell'atrio di Palazzo Nuovo, dove chiunque lo scorso lunedì, ma anche lo scorso martedì, era libero di fotocopiare i propri libri o comunque fotocopiare quei libri di cui già noi disponevamo. Parlando anche con gli studenti che si sono presentati veramente in tanti, al di là oltre delle nostre aspettative. Abbiamo parlato un po' di questo problema e effettivamente la vita universitaria sta soprattutto i libri per poter sostenere l'esame stanno diventando comunque un peso insostenibile per gli studenti. Abbiamo fatto anche una raccolta firme appunto dove chiediamo di non avere ulteriori spese oltre alle già costose tasse universitarie, e l'abbiamo inviata ai professori di tutti i dipartimenti. Anche qui per il momento i professori si sono mostrati più che favorevoli alla nostra iniziativa e sensibili alla nostra tematica. Quindi per il momento non abbiamo avuto pareri o comunque azioni contrastanti, anche perché la problematica, questo problema qua mi sembra più che evidente. Ma avete già idea di come continuare questa iniziativa, questa mobilitazione? Comunque? Allora, noi per il momento, anche oggi, chi vuole ci troverà in atrio, sempre con la fotocopiatrice, dove sarà libero di fotocopiare i propri libri. E prossimamente, anche da quello che si era detto in assemblea, ci ritroviamo ogni lunedì alle 6, sempre nella biblioteca autogestita, di portare e sensibilizzare ancora su questa tematica ancora una volta nelle aule, per sentire i pareri degli studenti e vedere come migliorare questa situazione anche con le nostre iniziative. Quindi ritorneremo sicuramente nelle aule e a parlare con tutti gli studenti. Perfetto Paolo, grazie mille davvero. Grazie a voi. Ti ringraziamo. Speriamo grazie che qualcuno venga in atrio. Va benissimo, allora ci vediamo. Grazie. Ciao.

Cento, Cash, Vito da Gucci, Shadow, Mauro Deso, Bombini, Killa, Mr. Jack, MVK, Io Solo, Rocky, Super K, Bruno Massi, Tonta, Justin, Lord Day, Babylon alla Valona, Low Juan, Farai Fior, Sergio, Dario Smith, Max Yeti, Sol Mayer, Milanzone. Le vostre mani quando un MC le chiama, miriamo dritto al cuore, solo colpi morfaia, non chiedermi il motivo se sta musica baia, sta guinzaio come te col tuo molosso, questo battito è la prova, per questo non è alla moda, e se credi che l'hip hop ora sia una nuova droga, io mi faccio di sta roba da quando era una sola, lo senti il meridione, lo leggi nelle persone, spariamo cannonate sulla faccia del sole, la musica non è solo un bel contenitore, c'è un motivo se il mio suono si prende quello che vuole, la gente stringe mani, cerca semplicità, la notte non finisce quando il sole verrà, non la rubi fra, lo faccio senza stronzate, il mio suono non è a salve come i colpi che sparate, sparate colpi a salve su musica vera, rompiamo queste sbarre, fuga dalla galera, fuggiamo allora d'aria, si spara la cieca, la storia resta scritta sulle lastre di pietra, fa bene Popo P, Clementine, Stock e Mad Buddy, fratelli, Clementine, Stock e Mad Buddy, fratelli, il mio groove non è a salve come i colpi che sparate, sud le campane che ho underground riparano, catapulte puntate sulla merda che è passata, hot pacche sale, poi champagne c'è sta l'acquimare, qui abbiamo i piani dagli anni 90, musica seria dove le notti vedevi le tigri e dragoni, Palermo e Napoli, mangoli, cani, mamma, li turchi, spariamo fulmini a forma di chi di terroni, te piglia per capil come Kinga e Eva Dream, che la capasta per radio scoppio tine TNT, green come Grinch, free come drink, tieni ancora morti in dall'armadio come film e Tarantino. Arrapi, te, narrapi, se capisci, vuoi morire, sì, me tradi. Il mio messaggio alla fine del saggio, lascia stare questa roba a noi, perché fratello è il peggio del peggio. Sparate colpi a salve su musica vera, rompiamo queste sbarre, fuga dalla galera. Fuggiamo allora d'aria, si spara la cieca, la storia resta scritta sulle lastre di pietra. Fa bene, Popo P, Clementine, Stock e Mad Buddy, fratelli, fa bene. Popo P, Clementine, Stock e Mad Buddy, fratelli, per campare posso spaccare le pietre, ma lo sai che uno schiavo poi ha sete e non ce n'è, con sto ricordo ci ho luppato la tua vita intera, siamo io e la mia ombra abbracciati la sera, sempre io e la mia crew, la tua signora, mentre tutto parla e basta continuo a guardare l'ora, so che quello che ti fotte è una paura nuova, continuo a fottere censure adesso come allora, Giorgio dammi il piano, un'altra prospettiva, che non invecchierò da solo anche se parto prima, questa merda che mi incolla la cantina, con la band, con la rima, con le gruppi e l'aspirina, non me ne fotte nulla senza testamento, non firmo strofe con la para del licenziamento, la musica paga quello che sfascio, ed è meglio un suono fashion che chiudersi e fare il fascio. Sparate colpi a salve su musica vera, rompiamo queste sbarre, fuga dalla galera, fuggiamo allora d'aria, si spara la cieca, la storia resta scritta sulle lastre di pietra, fa bene. Popo P, Clementine, Stock e Mad Buddy, fratelli, fa bene. Popo P, Clementine, Stock e Mad Buddy, fratelli, rappresento. Italia, per i guaglioni rappresenta Tasters alias Fratmo, Mad Buddy, Stocca, Clementino, Jena White, Napoli, Palermo, siento che livello. Siento como zumba, ¿verdad? 11.51 sulle libere frequenze di Radio Blackout. Ricordiamo i contatti: 011 2495 669 346 66 73 263. E andiamo avanti con questa puntata di Parole Ribelli, con il secondo argomento che abbiamo, che vogliamo trattare, ovvero questa intervista apparsa su Commonwealth di Ivan Bonin a Sebastian, uno studente della Goldsmith University, sulle lotte che si sono date nel mondo della formazione britannica. Un punto di vista interessante per vari motivi, perché adesso poi ci accingiamo a entrare nel vivo della questione, però rilevante comunque è il fatto che si ponga anche in un sistema di formazione molto diverso sotto, diciamo, alcuni punti di vista, più avanzato nella sua messa a profitto rispetto a quello italiano, comunque siano esplose dentro ai confini della formazione questioni più ampie che la tematizzano non tanto in termini di difesa del libero pensiero, quanto di interrogare direttamente che forma di università si attraversa, che tipo di dispositivo è quello universitario all'interno dell'assetto sociale. E quindi andiamo a leggere questa intervista con la prima domanda, ovvero: cosa significa austerità in Inghilterra oggi e qual è la sua relazione con il mondo dell'istruzione? È una politica dispiegata tanto quanto lo è nel sud dell'Europa, o credi ci siano alcune differenze nella sua implementazione? Risponde Sebastian: il programma di austerità del governo inglese si costituisce di una serie di tagli alla spesa, di deregolamentazioni e privatizzazioni nel settore pubblico. Per quanto concerne l'istruzione universitaria, abbiamo sinora vissuto l'esternalizzazione verso agenti privati dei servizi presenti nel campus, una triplicazione delle tasse universitarie e la chiusura di vari corsi di studio. E già qui, diciamo, lo scenario è abbastanza conosciuto anche agli studenti nostrani. L'istruzione è progressivamente mercificata. Gli studenti sono sempre più trattati alla stregua di consumatori che richiedono career skills, e il lavoro è sempre più soggetto a processi di repressione salariale e precarizzazione. Processi simili sono dispiegati su tutto il settore pubblico in Gran Bretagna. Tutti i beneficiari di welfare sono stati costretti a subire significativi tagli ai propri sussidi, l'imposizione della bedroom tax e schemi di workfare disciplinare. Tuttavia, l'austerità non è semplicemente inutile e irrazionale, anche se inizia a essere accusata da più fronti di inibire la crescita economica e la ripresa. L'austerity sta in realtà favorendo una strategia molto razionale di accumulazione capitalistica, l'esproprio del pubblico. Il sostegno del governo al welfare per le aziende e ai tagli della tassazione è un'indicazione piuttosto chiara di questa dinamica. E volendo, si potrebbero menzionare anche l'aumento degli stipendi manageriali, il matrimonio reale nel 2011, i funerali di Stato della Thatcher, la costruzione del villaggio olimpico e la militarizzazione di Londra durante le Olimpiadi del 2012, scusate. Il progetto neoliberista sta progressivamente centralizzando la ricchezza e il potere nelle mani di pochi, espropriandolo dal pubblico. Il neoliberismo ha preservato il feticcio della crescita aggregata, ma con il fine di potenziare le aziende e le élite aziendalistico-finanziarie. Bene, già con questa prima domanda vediamo che i nodi che Sebastian individua, che va a attaccare, sono molto, possiamo ritrovarli assolutamente anche nello scenario delle università locali. Abbiamo appena fatto la diretta con Paolo in un altro modo, comunque la questione sul caro libri poneva in termini più ampi la questione della trasformazione dell'università. Quali sono le trasformazioni causate dall'aumento delle tasse universitarie e dal crescente debito studentesco? Possiamo parlare di una minore accessibilità all'università? La composizione sociale universitaria sta mutando? Risponde Sebastian. Personalmente non ho studiato qui sufficientemente a lungo per poter assistere in prima persona a trasformazioni visibili nella composizione dell'università. Eppure, mi sento di dire che la componente predominante, la classe media bianca, era già sovrarappresentata quando iniziai 3 anni fa. Poiché vivo e studio nel sud-est londinese, l'esclusione del proletariato, in particolare quello nero, risulta piuttosto evidente. Ho parlato con molte persone del posto che non fanno parte dell'università e si sono lamentate per non essersi potute permettere l'iscrizione a causa del costo delle nuove rette. Poi si affronta il problema del movimento studentesco del 2011. La domanda che viene fatta a Sebastian è se il movimento studentesco è cambiato rispetto a quella mobilitazione. Quindi alla domanda quali sono le continuità e discontinuità del movimento studentesco di oggi rispetto a quello del 2011, sei d'accordo con la prospettiva di una mescolanza, sovrapposizione sempre più consistente tra soggettività studentesche e lavoratrici? L'intervistato risponde: credo potrebbe ancora essere prematuro caratterizzare la recente ondata di mobilitazioni studentesche come movimento. Nella mia università c'erano circa 100 partecipanti nell'occupazione chiamata in solidarietà con il personale in sciopero nella prima settimana di dicembre. Eppure, nonostante in Gran Bretagna sia molto difficile mobilitare occupazioni a breve termine, ci sono ancora 11 occupazioni diffuse nel paese. Mentre le proteste studentesche del 2010 vivevano principalmente sulle tasse di iscrizione universitarie, queste occupazioni si sono anche espresse in opposizione ai più ampi processi di mercatizzazione, repressione salariale, esuberi, esternalizzazione di servizi, debito studentesco, così come la chiusura del sindacato dell'University of London. E diciamo sempre nella lunghezza d'onda di rendere l'università un'azienda, senza diciamo non tenendo più conto e non essendo più di particolare importanza la dicotomia pubblico-privato, in quanto anche il pubblico sta prendendo sempre di più la struttura e il management dei privati. Continuiamo poi con l'intervista. Prima di queste occupazioni molti studenti hanno anche partecipato alla campagna Tre Cosas, rivendicando salario in malattia, ferie pagate e pensioni per i lavoratori esternalizzati, parimenti agli altri lavoratori. In seguito a uno o due giorni di sciopero a novembre, i lavoratori esternalizzati hanno raggiunto alcune parziali vittorie. Questa campagna è particolarmente emblematica per quanto riguarda l'emersione di una soggettività, centrata sulla comune esperienza della precarietà. Gli sforzi dello scorso anno nel creare un pop sindacato che si sapesse opporre ai processi di esternalizzazione alla Sussex University anche andrebbero compresi entro questo stesso contesto. A causa dell'enorme indebitamento e della prospettiva di un accesso ad un mercato del lavoro estremamente precarizzato, gli studenti percepiscono sempre meno differenza tra sé e la forza lavoro precarizzata. Ciò tende a produrre un sempre più consistente concatenamento di reti di solidarietà tra studenti, ricercatori, personale docente, lavoratori e attivisti. Speriamo che questa sorta di solidarietà attiva si possa presto estendere ad altri campus universitari, con il fine di sostenere ed imparare ad altre sezioni della moltitudine in lotta contro la precarizzazione. Yeah, Mary Stank Ho Queen. It seems they know not what these words mean. Check my king senses, princess, black beauty, nice beauty, black pearl, fly girl, don't stop, dark and lovely chocolate drop, brown sugar, blackberries, love hip hop, soul, sugar dumpling, let me tell you something, mature and slender, young and tender, nothing will hinder my full surrender to our nation's pearls, black girl, black girl. Ecco, senza voler fare paragoni forzati, questo nodo ci sembra molto importante perché diciamo nello scenario cittadino noi abbiamo il campus che è appena atterrato in città, la nuova astronave dell'Università di Torino, in cui questo tipo di reti, seppure in maniera molto embrionale, vediamo che in qualche modo si stanno cominciando a dare. Abbiamo visto per esempio presenziare a un incontro organizzato dal rettore Ajani, che poneva delle questioni rispetto al campus, interrogava coloro che lo attraversano, quindi studenti, lavoratori, personale docente, rispetto alla funzionalità poi della struttura. E abbiamo visto presenziare insieme bibliotecari e studenti che stanno portando avanti una raccolta firme per l'apertura prolungata della biblioteca. Una raccolta firme che non si limita, diciamo, a richiedere 2 ore in più, o meglio, da lì parte nel molto concreto, ma pone direttamente la questione della possibilità di attraversare il campus in un certo modo da parte degli studenti, che comunque pagano profumate tasse per essere poi cacciati alle 6 da una biblioteca enorme che ha centrato tutti i fondi bibliotecari dell'università, e quindi non vi è altro luogo in cui andare. E non solo, l'università diciamo nello strutturare questa nuova biblioteca non si è posta appunto il problema di una copertura più ampia del servizio con un conseguente aumento dei salari. Quindi la soluzione finora trovata è che il servizio della biblioteca è ridotto, e i suggerimenti finora in atto sono e la cosa preoccupante in realtà è che sono venuti da sindacatucoli studenteschi, come diciamo afferenti a CL per esempio, ma è stata una cosa anche ventilata in quell'incontro stesso, coprire i buchi, i disservizi dell'università mettendo al lavoro gli studenti con i bandi 150 ore, insomma istituendo un vero e proprio sistema di workfare. We can go cruising in my 6-tray. We can go cruising in my 6-tray. Gee, it all started at birth. I wanted to see how much my hood was worth. Was born to be a child of voodoo. Do as I do, following voodoo to the rhythm, moves with them to a curse. Sunken in rib cage, a point blank range. Blow from a 12 gauge, better get him a nurse. Split second too late, brown hearse. Right door second, left door first. And there was no flaw in that plan, everything was rehearsed. Two knocks on the door, but they did everything twice. Received a device, 2 pair of latex gloves, scalpel, a rich knife. Looked at each other and said, let's get it on. Stripped the body down, checked the temperature to see if it was warm. Stick man, sculpt your own front side. Skin split and to reveal insides. Now is this a homicide? As it drove away, I heard bullets ricochet, and the hell of a skid mark left from the 6-tray. See our ball, give me a call, and we get rolling in my 6-tray. All day our ball, give me a call, and we get rolling in my 6-tray. We can go cruising in my 6-tray. We can go cruising in my 6-tray. Anywhere, anytime, any day. We can go cruising in my 6-tray. L'intervista poi si conclude con un'ultima domanda. Come leggi in chiave politica la repressione poliziesca contro gli studenti? Credi che il tema possa in qualche modo favorire l'incontro con la popolazione nera e il suo No Justice, No Peace per Mark Dugan? A questo emergente risponde: a questo emergente processo di resistenza politico è stato sistematicamente fatta corrispondere la solita violenta repressione dell'apparato di Stato. La scorsa estate la polizia arrestò un attivista reo di aver attacchinato un manifesto alla University of London. Recentemente anche il presidente della UL, il sindacato degli studenti londinesi, è stato arrestato perché si oppose alla chiusura del suo sindacato. Pure la University of Sussex è stata protagonista di un altro grave caso di repressione. La sospensione draconiana di 5 suoi studenti attivisti, il violento sgombero della Senate House e la concomitante ingiunzione restrittiva dell'alta corte contro l'occupazione come forma di protesta. Hanno di conseguenza mobilitato migliaia di studenti in una serie di proteste che avevano come obiettivo la cacciata degli sbirri dai campus universitari. Nel corso della stessa settimana sono emersi nuovi dettagli invece sull'inchiesta sul caso Dugan, la cui uccisione da parte della polizia nell'agosto 2011 innescò i famosi riot che si diffusero in tutto il paese. Quindi l'intervista si chiude diciamo sulla repressione. Sebastian diciamo dice che è già un qualcosa se gli studenti sono mobilitati comunque per rispondere al comportamento violento di polizia e apparati repressivi, organizzandosi e cacciando proprio la sbirraglia da dentro le università. I wanted to holly, growly, quality, starting, Charlie, preach, Gemini, who could get the ghost in your complete, to bring a mayday, mayday, mayday, going down. Just relax and let it flow. Give it to me now. Danger, don't get close. Anger, cause my hurt. Name of the game, styles. You can't understand the strain that G's go through. You can't understand the pain. People of the world, this is my theme music. I abuse to it, sing the blues to it, skin bodies to it. Damn, I knew it. I never slack up, so no suck, I can't get hip to it. Sing my song, I fling the good scene. Brother Benedict gets me and he lost his dream. A G-R-E-E-N. M-O-N-E-Y-S friend. No, you don't wanna put yourself in that predicament. Because you might owe a lot some to the government. Damn, I'm loving it just to see how I'm hugging it. When the push will be coming into the shoving it, I'll be bugging it. This is not a game. Kinfolk is my name. When I'm dropping them dogs and things, I show no shame, no shame. E a questo proposito ne approfittiamo per mandare solidarietà ai compagni e alle compagne di Bologna colpite da dei provvedimenti per la giornata di lotta che si era data in Piazza Verdi, e rilanciamo sul loro appuntamento oggi in Piazza Verdi alle 18. Contorting wildly, assorting Charlie whippers. You sip one whip, a plan to split. Mike got nine, that jack belt, oh shit, bad. Right, the right, and right, from some zigzag. From South Central, LA, I don't mean to... Ore 12:10 sulle libere frequenze di Radio Blackout, e noi di Parole Ribelli ne approfittiamo per mandare un saluto all'oggi assente Francesca Vaglio, la nostra dottoressa InnoTav, che oggi ci manca molto in questa giornata di problemi tecnici e redazione concitata. You can't understand the pain. Live longer, payback's a bitch, that's why I never borrow. If the push come to shove, I do a stick up tomorrow. With the group thing over and my flat top gone, I'm living kinda lovely, only a law above me, proving that old time axiom, birds of a feather flock together. Know where I'm coming from? Jackpot, I got to go for broke, cause this the only way the Smith family know to go. Right here to my youngest one is older folks. I'ma put it down like a dirty so-and-so. Free daddy came here to work the mojo, oh, because the high is high and the low is low. And I go for the sinner, man, the holy foe. Put your shit in the sky like I know you know. My ghetto nation get toe to toe, but stay rockin' steady, steady, cause I told you so. And after y'all get it going, let it go some more. That blackjack about something for sure, for sure. For sure, for sure. Let me see it in the world, making your shoulder roll. And if it get good to your nigga, throw your bowl, cause we are so ghetto. Yes, we are rock and roll. Yes, we are so ghetto. Yes, we are rock and roll. Yes, we are so ghetto. Yes, we are rock and roll. Yes, we are so ghetto. Yes, we are rock and motherfucking roll. Ha. I am a fighter and a lover. I'm the freaky baby daddy. I'm a bad motherfucker. I'm the earth, wind, fire, and the thunder. I said I am, go ask my mama. You don't believe that shit, believe what you wanna. Alright, okay, what's up? Shut up. Speak language, come straight from the gutter. Observe the terms that we trade with one another. Like, what's good, what's poppin', what's crackin'? What it is, how you livin', what's happening? Work souls in the slave sang back then. The playground chants with little girls clapping. Blackjack Johnson, NYC, R-O-C-K-I-N-G. Sun and the moon, earth, stars, and planet. Before it's all done, y'all gon' all understand it. Blackjack Johnson, NYC, R-O-C-K-I-N-G. Sun and the moon, earth, stars, and planet, planet, planet, planet, y'all gon' all understand it. Stimolo l'enemy, credimi, stanno in gara con se medesimi, si apre i sesimi del pericardio. Smerdi come farlo trendy, prendi un brandy, brandelli profetici, santi antitetici, vanti mimetici, chianti diuretici, pianti simmetrici, tutti sopra i culi di mulatta, latte senza tattiche, guarda fuori un fiore sul dolore, ledo le ore, cerco le suore, smarca il signore. Me da te mi lamen, marchia in sensore. Rimane precursore come te, come te, come con te. Ne avete a monte questo perché ni vive, vive. Intercettazioni cognitive, propulsive. Vi voglio propositive pure senza nive. Una marea di chi va là. Energia la nostra viene, la scienza è una profusione. Invece si atti di perlustrazione. Sogni del figliolo nel cielo. Che sto gente che non vero solo. Ma se perdo solo che parola. Ma non sai paura. Si te fatta una dimensione, e capito già come funziona, ma non sai paura. È il gala della SIAE, laddove la galassia si allaga, la musica non paga, cammina con le gambe tue, collegati con l'hip hop, se l'amicizia che ti lega, te collo sovente, nel senso di spesso, mi stallo per farmi presente, se sono connesso, mi nollo come differente, al massimo non passo, sul rap che ti smolle, espanso, compresso, svarionatissimo ossesso, anche perché si sente sempre lo stesso, cesso in collasso, quando va di lusso, se posso ci vado, mono, resto il mono, fisso su insulta la mano suono, più sudi insultano quando esultano e saltano, si esalta la parte più jazz, storie di tipi con tipi di rime diverse, si fanno scommesse su chi porta più classe, questioni riflesse, in questo sto più fuori e si sente, non può da essere diversamente. Che sto certo che non vero solo, ma si è aperto solo che parola, ma non sai paura. Si ti è fatta una dimensione, hai capito già come funziona, ma non sai paura. Ballo la bamba sulla banda di caramba, vuoi spararmi? Fallo la gamba per fermarmi. Sogno una branda in veranda in una villa in Olanda, gallo che canta ancora tanto per svegliarmi. Si è perso il concetto del senso del fair play, vedi il tuo terzo concerto in offerta sull'eBay, blef qua non c'è replay, graffa fa da DJ, catafaka trasformati in faccia come Kafka. C'è gli esperti a 20.000 metri di distanza, giù con giubbinoni aperti, becchi sporchi aperti, movimenti a strisce come Maggie e porti il catenaccio, denti d'oro, l'alito dei morti e la fanfara in braccio. Giochi come vecchia Pro Evolution, vedi come va, fai vano, gliena guai, chi prezzo è giusto, ti dà mai che fa il trambusto, chiama la mamma e tutti i sogni sono avverati, ma nella banca i tuoi bisogni già prepagati. Che sta gente che non vero solo, ma se perdo solo che parola, ma non sai. E per chi è a Roma diamo un appuntamento sempre nel segno del dei temi che abbiamo trattato oggi, quindi la riappropriazione dentro l'autogestione, dentro l'università, al lucernario occupato a Roma organizzato dalla Sapienza Clandestina, e comincia la 2 giorni di riappropriazione nel segno dell'autogestione e della riappropriazione, Hate and Knowledge. Ce l'hanno con me per via della mia combattività. Ana plana, chi qui c'è tramontana, insana, poca grana, meno lana in tana. Bene, viene, ma sempre più spesso va, si sa, direttamente nel nirvana. Mi trattiene il miele, swing, banana rama, mentre voi sulle ginocchia di Dolce Gabbana. Frana, pena, appena in tempo, a malapena, cara iena, diglielo tu che razza aliena mena qui, penalty. Non sai cosa può succederti, ucciderti, concederti una chance, vai coi trans, figlio trans. Non siete con noi, ma lo vorrebbero anche le vostre fans. Che sta gente che non vero solo, ma se perdo solo che parola, ma non sai paura. Si ti è fatta una dimensione, hai capito già come funziona, ma non sai paura. Ricordiamo adesso degli appuntamenti della settimana. Mercoledì 12, dalle 15 alle 19, Genuino Clandestino al Gabrio, via Miglio 42. Ore 20, cena bella vita al Mezcal Squat, Parco della Certosa con Legno. Poi abbiamo venerdì 14, serata trash benefit impianto in via Alessandria 12, all'asilo occupato. E al CES a Scatasuna, Buzzwarp e One Crew si sfideranno a colpi di bassi, drum and bass, techno, electro e altra musica. Come l'orto di underground, quando vado in scena più agitato di James Brown. Credi che c'hai skill, cerchi il dollar bin, you cast a chill, come BMD, senti l'LP, adesso guarda me e spi. Sono ancora in piedi, come il galante, un ectoplasma per cui non mi vedi. Nessuna faccia è più zero stile hippie, credo nella pace come Gandhi, ma è ora che tu scendi. Adesso guarda me, adesso guarda me, meglio che scendi. Adesso guarda me, Sento cedere la cartilagine alla tua immagine. Faccio come Roma con Cartagine. Tenda Ercico, SNES, la finestra, zero stress. Intoresse. Scippo cesi. Proponi un viaggio non tuo, una storia non tua. Bevi il calua che lo zio Piscopo ti fa la bua. Il tuo spessore latita, è minimale con la tua anima. Mi ci straccio il filo interdentale. Gustoso fiacco in C, ti salgo come un trip. Adesso guarda me come la finezza click. Quando fai la gente non sente, mentre ne fai differente, tecnicamente perfetto come un vaso Ravensburger. Con un fiacco in C ci straccio l'hamburger. Non conta i dischi che vendi, le tipe che stendi, ma solo le mazzate che prendi. Mo è meglio che scendi. Nazionale, baci. Chi è più in forma scende in campo. Non so se puoi testare o capire lo spessore. Secondo me è meglio che stai a casa. Capisci? Per il 9-6 è ancora più avanti. E mentre andiamo verso la conclusione di puntata con l'ultimo argomento, ci scrivono che stiamo mandando musica da presi male, che ti stiamo deprimendo di brutto, un'ascoltatrice o un ascoltatore. E invitiamo a fare richieste sulle canzoni. Se questa musica vi prende male, noi siamo vecchia scuola. I am ready for you. I hope you. Sound in Akinas, Quico Max, fino al Mexico, Toxico, resta qui fino a che te lo dico, ti punto il dito medio, se non sei meglio di me, se no stai giù che ti metto giù Caratec, stai lì con Fufu con Tex, sai già chi è, quasi un casino ne has per te, per te, per te, per te. Quinto da flocitura nera, un sistema. stable. I gotta be black, I gotta be open, gotta be mean, I gotta keep open. We're gonna be free, gotta be able to gotta attack, gotta be stable, gotta be black. Adesso 12:33 sulle libere frequenze di Radio Blackout. Andiamo avanti con Parole Ribelli, che sta volgendo al termine. Siamo in collegamento con Dario da Roma. Ciao Dario. Dario, ci senti? Sì, vi sento, vi sento. Bene, e appunto sull'onda un po' dell'ultima domanda dell'intervista che abbiamo letto prima a Sebastian, che lo interrogava riguardo alle misure adottate dalla controparte per frammentare una lotta evidentemente ricompositiva, e andiamo a presentare l'appuntamento di questo weekend a Roma il 14 e il 15 marzo, quando l'ingiustizia si fa legge, ribellarsi è necessario. Un dibattito nazionale che verte intorno al nodo di legittimità versus legalità, che interroga le pratiche di conflitto e l'irriducibilità ad una legalità imposta dentro un modello di sviluppo che rispetto a quale ci si pone in maniera conflittuale, sono due nodi su cui si costruiscono comunque due terreni di scontro opposti. Ma lascio la parola a te, Dario, vuoi dirci qualcosa su questa prima giornata, un po' più di dibattito, e poi su quella che seguirà? Sì, vabbè, partendo da come nasce l'idea di voler fare questi due giorni sulla repressione, penso che negli ultimi anni sicuramente sono state lotte particolarmente forti, ricompositive, che in qualche modo hanno fatto dei passi avanti rispetto ai movimenti sociali degli scorsi anni, e dobbiamo dire che c'è stata reattività da parte della controparte nell'andare a colpire con linea scientifica chi stava animando in particolare questi percorsi sociali. Infatti come sapremo tutti, l'ultimo mese sono stati colpiti sia i movimenti di lotta per la casa romani sia i precari brass di Napoli. Sono appunto attacchi mirati a delle soggettività che in qualche modo stavano mettendo in evidenza le contraddizioni che nascono all'interno di questa crisi, e come si diceva alla due giorni a Napoli, vengono colpiti quei movimenti a cui non si riesce a dare risposta perché mettono sul piatto richieste troppo, troppo importanti. In qualche modo, in maniera quasi profetica, era stata lanciata questa due giorni sulla repressione, che a questo punto diciamo, assume anche tutto un altro tipo di valore, perché non solo bisogna tornare a parlare tra compagni e compagne, non solo con tutti i percorsi e chi li anima di repressione, visto che sicuramente sta tornando in maniera decisiva a colpire chi anima i percorsi, ma allo stesso tempo bisogna prendere parola su questi temi e cercare di mettere in difficoltà la controparte con un discorso che sia forte, che parli di lotte sociali, che quindi la risposta che non si può dare a chi occupa casa, a chi reclama casa e reddito e dignità, non possono essere le misure restrittive o gli arresti domiciliari o ancora il carcere, ma devono essere risposte di tutto un altro tipo. Ecco. Su questo poi per declinare un po' la repressione in tutti i suoi ambienti, si è pensato di costruire nelle ore prima del corteo quattro piazze tematiche che inizieranno a mezzogiorno qui a Roma, che sono la piazza di Piazza Indipendenza, che parla appunto di frontiere e libertà di movimento, visto come sappiamo che molti degli occupanti di casa, molte delle persone che animano le lotte sociali negli ultimi anni sono migranti, quindi persone che vengono da fuori, quindi parlare di libertà di movimento e della chiusura di tutti i CIE è sicuramente prerogativo. E un'altra piazza è quella che si terrà alla metro di Bibbia, dove si trova il carcere più grande di Roma, che parlerà di sistema carcerario e controllo sociale. E la terza piazza è quella dei territori contro devastazioni ambientali, dove appunto si parlerà in particolare di che cosa sono il movimento NOTAV, il movimento Comuos, e poi in particolare di come la repressione va a colpire questi movimenti contro le devastazioni territoriali, in particolare per quanto riguarda la Val di Susa. Poi il mercato c'è molto più esperti di noi. Cosa vuol dire la repressione in lotte popolari, quelle della Val di Susa, quali sono le nuove frontiere della repressione che vanno da multe salatissime da far pagare a dei movimenti per cercare di indebolirli, anche di creare delle spaccature, a quello che poi è anche il carcere duro, come sappiamo che è in questo momento per i compagni accusati di terrorismo che si trovano in carcere, per i tantissimi e le tantissime che sono state denunciati e posti sotto misure restrittive negli ultimi anni per la lotta contro la TAV, e come presumibilmente con l'accrescersi delle lotte territoriali avverrà per quanto riguarda i movimenti contro le discariche, contro gli inceneritori, contro il MUOS, quindi più o meno ovunque dove non si riesce a dare una risposta coerente a quelle che sono le nostre richieste. L'ultimo tavolo, che sicuramente è anche quello più corposo qui a Roma, è quello della precarietà abitativa e sociale contro l'austerity, che si terrà a San Paolo, diciamo che questo qui è un tavolo dove si parla anche di cosa vuol dire la lotta per la casa e di come questa viene colpita ultimamente in particolare, ma non solo, i movimenti di lotta per la casa romani hanno vita decennale, in qualche modo anche la repressione su di essi ha la stessa vita, quindi come viene declinata la lotta per la casa per quanto riguarda la repressione. Pensiamo che toccando questi quattro macro argomenti si possa parlare a livello abbastanza generale di cosa vive oggi il movimento italiano per quanto riguarda la repressione. Speriamo che sia la parte del convegno sia la parte del corteo possano essere, diciamo, soddisfare un po' le nostre intenzioni e quindi costruire e lanciare sul tema delle repressioni, sempre appunto come ricordavo all'inizio, quando l'ingiustizia si fa legge, ribellarsi è necessario, quindi rivendicarsi la resistenza, rivendicarsi il fatto che i diritti si conquistano a spinta e che continueremo sulla nostra strada. Va bene Dario, grazie mille, grazie davvero, sei stato molto esaustivo rispetto a questo appuntamento, quindi ci vediamo il 14 e il 15 a Roma. Quindi aspettiamo tutti e tutto, un abbraccio, un saluto da Radio Blackout e qua dal Lucernario occupato. Ciao anche a voi. Bene, quindi andiamo in chiusura, vediamo che comunque questo appuntamento si pone abbastanza in continuità con il convegno che era stato fatto a Bussoleno il 7 dicembre, diritto alla resistenza, che a partire da quella che è la l'ansia generalizzata della controparte di sedare qualunque lotta sociale, l'accento poi di fatto qui è posto nell'interrogare il sistema democrazia e rappresentanza e che cosa, diciamo, quali sono le risposte che questo assetto propone per chi pone questioni, per chi pone fortemente le contraddizioni in atto nella società oggi. Quindi quindi anche una condivisione rispetto alle pratiche, alle lotte per contro l'amorosità, cioè contro il perseguimento dell'amorosità, per l'insolvenza, la resistenza agli sfratti, l'occupazione per necessità, fotocopiare dei libri, sono tantissimi gli esempi che si possono fare di pratiche collettive che si possono mettere in atto per contrastare questa crisi e allargare il rifiuto a pagarne le conseguenze. You know we fist the jam, the road gets ripped the plan. Before shit hits the fan, the show gets ripped again. We diddle around a rhyme, a riddler, reiterate a written word, a rhythmic, arithmetic, ridiculous, meticulous, skip the kid. You know me when you're gloomy, rip your bit, lift your lip, off the tip sound, around town. So boogie down with the brothers that'll rock your party. Jump up, spin around and sock somebody. Yeah, we like it when the beat be bumping and you throw your hands in the air. Now, might she, might get. 12.42 sulle libere frequenze di Radio Blackout. Parole Ribelli arriva anche oggi alla fine e l'appuntamento è per martedì prossimo alle 10.45. Un saluto da Silvestro e un saluto da Eddie ma soprattutto un altro saluto alla nostra Fra.